La storia dell'ingegner Alfred L. dimostra, fra le altre cose, quanto sia vano il mito dell'uguaglianza originale fra gli uomini. L. dirigeva nel suo paese un'importantissima fabbrica di prodotti chimici e il suo nome era ed è noto negli ambienti industriali di tutta Europa. Era un uomo robusto sulla cinquantina, non so come fosse stato arrestato, ma in campo era entrato come tutti entravano, nudo, solo e sconosciuto. Quando io lo conobbi era molto deperito, ma conservava sul viso i tratti di una energia disciplinata e metodica. In quel tempo i suoi privilegi si limitavano alla pulitura giornaliera della marmitta degli operai polacchi. Questo lavoro, di cui egli aveva ottenuto non so come l'esclusività, gli fruttava mezza camella di zuppa al giorno. Non bastava certamente questo a soddisfare la sua fame, tuttavia nessuno lo aveva mai udito lamentarsi. Anzi, le poche parole che lasciava cadere erano tali da far pensare a grandiose risorse segrete, a una organizzazione solida e fruttuosa. Il che trovava conferma nel suo aspetto. Elle aveva una linea, le mani e il viso sempre perfettamente puliti. Aveva la rarissima abnegazione di lavarsi ogni 15 giorni la camicia, senza aspettare il cambio bimestrale. Facciamo qui notare che lavare la camicia vuol dire trovare il sapone, trovare il tempo, trovare lo spazio nel lavatoio sovraffollato, adattarsi a sorvegliare attentamente senza distogliere gli occhi un attimo la camicia bagnata e indossarla naturalmente ancora bagnata all'ora del silenzio in cui si spengono le luci. Possedeva un paio di suole di legno per andare alla doccia e perfino il suo abito a righe era singolarmente adatto alla sua corporatura, pulito e nuovo. Elle si era procurato in sostanza tutto l'aspetto del prominente assai prima di diventarlo. Poiché solo molto tempo dopo ho saputo che tutta questa ostentazione di prosperità elle se l'era saputa guadagnare con incredibile tenacia, pagando i singoli acquisti e servizi col pane della sua stessa razione e astringendosi così a un regime di privazioni supplementari. Il suo piano era di lungo respiro, il che è tanto più notevole in quanto era stato concepito in un ambiente in cui dominava la mentalità del provvisorio, e elle lo attuò con rigida disciplina interiore, senza pietà per sé, né a maggior ragione per i compagni che gli traversassero il cammino. Elle sapeva che fra l'essere stimato potente e il divenire effettivamente tale, il passo è breve, e che dovunque, ma particolarmente fra mezzo al generale livellamento del lager, un aspetto rispettabile è la miglior garanzia di essere rispettato. Egli dedicò ogni cura al non essere confuso col gregge. Lavorava con impegno ostentato, esortando anche all'occasione i compagni pigri, con tono suadente e deprecatorio. Evitava la lotta quotidiana per il posto migliore nella coda del rancio e si adattava a ricevere ogni giorno la prima razione, notoriamente più liquida, in modo da essere notato dal Blockel Tester per la sua disciplina. A completare il distacco, nei rapporti con i compagni si comportava sempre con la massima cortesia compatibile con il suo egoismo, che era assoluto. Quando fu costituito, come diremo, il comando chimico, elle comprese che la sua ora era giunta. Non occorreva altro che il suo abito nitido e il suo viso scarno, sì, ma rasato, in mezzo alla mandria dei colleghi sordidi e sciatti, per convincere immediatamente Capò e Arbeitsdienst che quello era un autentico salvato, un prominente potenziale. Per cui, a chi ha sarà dato, fu senz'altro promosso specializzato, nominato capotecnico del comando e assunto dalla direzione della Buna come analista nel laboratorio del reparto Stirolo. Fu in seguito incaricato di esaminare via via i nuovi acquisti del comando chimico per giudicare della loro abilità professionale, il che egli fece sempre con estremo rigore, specialmente nei riguardi di coloro in cui subodorava possibili futuri competitori. Ignoro il seguito della sua storia, ma ritengo assai probabile che sia sfuggito alla morte e viva oggi la sua vita fredda di dominatore risoluto e senza gioia. Elias Linzin, 141565, piove un giorno inesplicabilmente nel comando chimico. Era un nano, non più alto di 1,5 metri, ma non ho mai visto una muscolatura come la sua. Quando è nudo si distingue ogni muscolo lavorare sotto la pelle, potente e mobile, come un animale a sé stante. Ingrandito, senza alterarne le proporzioni, il suo corpo sarebbe un buon modello per un Ercole. Ma non bisogna guardare la testa. Sotto il cuoio capelluto, le suture craniche sporgono smisurate. Il cranio è massiccio e dà l'impressione di essere di metallo o di pietra. Si vede il limite nero dei capelli rasi appena un dito sopra le sopracciglia. Il naso, il mento, la fronte, gli zigomi sono duri e compatti. L'intero viso sembra una testa d'ariete, uno strumento adatto a percuotere. Dalla sua persona emana un senso di vigore bestiale. Veder lavorare Elias è uno spettacolo sconcertante. I meister polacchi, i tedeschi stessi talvolta si soffermano ad ammirare Elias all'opera. Pare che a lui nulla sia impossibile. Mentre noi portiamo a stento un sacco di cemento, Elias ne porta 2, poi 3, poi 4, mantenendoli in equilibrio non si sa come. E mentre cammina fitto fitto sulle gambe corte e tozze, fa smorfie di sotto il carico, ride, impreca, urla e canta senza requie, come se avesse polmoni di bronzo. Elias, nonostante le suole di legno, si arrampica come una scimmia su per le impalcature e corre sicuro su travi sospese nel vuoto. Porta 6 mattoni per volta in bilico sul capo. Sa farsi un cucchiaio con un pezzo di lamiera e un coltello con un rottame di acciaio. Trova ovunque carta, legna e carbone asciutti e sa accendere in pochi istanti un fuoco anche sotto la pioggia. Sa fare il sarto, il falegname, il ciabattino, il barbiere. Sputa a distanze incredibili. Canta con voce di basso non sgradevole canzoni polacche e yiddish mai prima sentite. Può ingerire 6, 8, 10 litri di zuppa senza vomitare e senza avere diarrea e riprendere il lavoro subito dopo. Sa farsi uscire fra le spalle una grossa gobba e va a turno per la baracca sbilenco e contraffatto, strillando e declamando incomprensibile fra la gioia dei potenti del campo. L'ho visto lottare con un polacco più alto di lui di tutto il capo e atterrarlo con un colpo del cranio nello stomaco, potente e preciso come una catapulta. Non l'ho mai visto riposare. Non l'ho mai visto zitto o fermo. Non l'ho mai saputo ferito. O ammalato. Della sua vita di uomo libero nessuno sa nulla. Del resto, rappresentarsi Elias in veste di uomo libero esige un profondo sforzo della fantasia e dell'induzione. Non parla che polacco e gli yiddish torvo e deforme di Varsavia. Inoltre è impossibile indurlo a un discorso coerente. Potrebbe avere 20 o 40 anni. Di solito dice di averne 33 e di avere procreato 17 figli. Il che non è inverosimile. Parla continuamente degli argomenti più disparati, sempre con voce tonante, con accento oratorio, con una mimica violenta da dissociato, come se sempre si rivolgesse a un folto pubblico e, come è naturale, il pubblico non gli manca mai. Quelli che capiscono il suo linguaggio bevono le sue declamazioni torcendosi dalle risa, gli battono le spalle dure, entusiasti, lo stimolano a proseguire, mentre lui, feroce e aggrondato, si rigira come una belva entro la cerchia degli ascoltatori, apostrofando ora questo, ora quello. A un tratto ghermisce uno per il petto con la sua piccola zampa adunca, lo attrae a sé irresistibile, gli vomita sul viso attonito un'incomprensibile invettiva, poi lo scaglia indietro come un fuscello, e fra gli applausi e le risa, le braccia tese al cielo come un piccolo mostro profetante, prosegue nel suo dire furibondo e dissennato. La sua fama di lavoratore d'eccezione si diffuse assai presto, e per l'assurda legge del Lager, da allora smise praticamente di lavorare. La sua opera veniva richiesta direttamente dai Meister, per quei lavori soltanto ove occorressero perizia e vigore particolari. A parte queste prestazioni, sovrintendeva insolente e violento al nostro piatto faticare quotidiano, eclissandosi di frequente per misteriose visite e avventure in chissà quali recessi del cantiere, di dove ritornava con grossi rigonfi nelle tasche e spesso con lo stomaco visibilmente ripieno. Elias è naturalmente innocentemente ladro, manifesta in questo l'istintiva astuzia degli animali selvaggi. Non viene mai colto sul fatto, perché non ruba che quando si presenta un'occasione sicura. Ma quando questa si presenta, Elias ruba, fatalmente e prevedibilmente, così come cade una pietra abbandonata. A parte il fatto che è difficile sorprenderlo, è chiaro che a nulla servirebbe punirlo dei suoi furti. Essi rappresentano per lui un atto vitale qualsiasi, come respirare e dormire. Ci si può ora domandare chi è questo uomo Elias, se è un pazzo incomprensibile ed extraumano finito in lager per caso, se è un atavismo eterogeneo dal nostro mondo moderno e meglio adatto alle primordiali condizioni di vita del campo, o se non è invece un prodotto del campo, quello che tutti noi diverremo se in campo non morremo e se il campo stesso non finirà prima. C'è del vero nelle tre supposizioni. Elias è sopravvissuto alla distruzione dal di fuori, perché è fisicamente indistruttibile. Ha resistito all'annientamento dal di dentro, perché è demente. E dunque in primo luogo un superstite. È il più adatto, l'esemplare umano più idoneo a questo modo di vivere. Se Elias riacquisterà la libertà, si troverà confinato ai margini del consorzio umano, in un carcere o in un manicomio. Ma qui, in lager, non vi sono criminali, né pazzi. Non criminali perché non v'è legge morale a cui contravvenire. Non pazzi perché siamo determinati e ogni nostra azione è, a tempo e luogo, sensibilmente l'unica possibile. In lager, Elias prospera e trionfa. È un buon lavoratore e un buon organizzatore, e per tale duplice ragione è al sicuro dalle selezioni e rispettato da capi e compagni. Per chi non abbia salde risorse interne, per chi non sappia trarre dalla coscienza di sé la forza necessaria per ancorarsi alla vita, la sola strada di salvezza conduce a Elias, alla demenza e alla bestialità subdola. Tutte le altre strade non hanno sbocco. Ciò detto, qualcuno sarebbe forse tentato di trarre conclusioni e magari anche norme per la nostra vita quotidiana. Non esistono attorno a noi degli Elias più o meno realizzati. Non vediamo noi vivere individui ignari di scopo e negati a ogni forma di autocontrollo e di coscienza? Ed essi non già vivono malgrado queste loro lacune, ma precisamente, come Elias, in funzione di esse. La questione è grave e non sarà ulteriormente svolta perché queste vogliono essere storie del lager e sull'uomo fuori del lager molto si è già scritto. Ma una cosa ancora vorremmo aggiungere. Elias, per quanto ci è possibile giudicare dal di fuori e per quanto la frase può avere di significato, Elias era verosimilmente un individuo felice. Henri è invece eminentemente civile e consapevole. E sui modi di sopravvivere in lager possiede una teoria completa e organica. Non ha che 22 anni, è intelligentissimo, parla francese, tedesco, inglese e russo, ha un'ottima cultura scientifica e classica. Suo fratello è morto in buna nell'ultimo inverno e da quel giorno Henri ha reciso ogni vincolo di affetti. Si è chiuso in sé come in una corazza, e lotta per vivere senza distrarsi, con tutte le risorse che può trarre dal suo intelletto pronto e dalla sua educazione raffinata. Secondo la teoria di Henri, per sfuggire all'annientamento tre sono i metodi che l'uomo può applicare rimanendo degno del nome di uomo: l'organizzazione, la pietà e il furto. Lui stesso li pratica tutti e tre. Nessuno è miglior stratega di Henri nel circuire, coltivare, dice lui, i prigionieri di guerra inglesi, essi diventano nelle sue mani vere galline dalle uova d'oro. Si pensi che dal baratto di una sola sigaretta inglese in lager si ricava di che sfamarsi per un giorno. Henri è stato visto una volta in atto di mangiare un autentico uovo sodo. Il traffico della merce di provenienza inglese è monopolio di Henri, e fin qui si tratta di organizzazione, ma il suo strumento di penetrazione presso gli inglesi e gli altri è la pietà. Henri ha il corpo e il viso delicati e sottilmente perversi del San Sebastiano del Sodoma. I suoi occhi sono neri e profondi, non ha ancora barba, si muove con languida naturale eleganza, quantunque all'occorrenza sappia correre e saltare come un gatto, e la capacità del suo stomaco sia appena inferiore a quella di Elias. Di queste sue doti naturali Henri è perfettamente a conoscenza e le mette a profitto con la fredda competenza di chi manovra uno strumento scientifico. I risultati sono sorprendenti. Si tratta in sostanza di una scoperta. Henri ha scoperto che la pietà, essendo un sentimento primario e irriflesso, allinea assai bene, se abilmente instillata, proprio negli animi primitivi dei bruti che ci comandano, di quelli stessi che non hanno ritegno ad abbatterci a pugni senza perché e a calpestarci una volta a terra. E non gli è sfuggita la grande portata pratica di questa scoperta, sulla quale egli ha inserito la sua industria personale. Come l'icneumone paralizza i grossi bruchi pelosi, ferendoli nel loro unico ganglio vulnerabile, così Henri valuta con un'occhiata il soggetto, son type. Gli parla brevemente, a ciascuno con il linguaggio appropriato, e il type è conquistato. Ascolta con crescente simpatia, si commuove sulla sorte del giovane sventurato, e non occorre molto tempo perché incominci a rendere. Non c'è anima così indurita su cui Henri non riesca a far breccia se ci si mette seriamente. In lager, e anche in buna, i suoi protettori sono numerosissimi: soldati inglesi, operai civili francesi, ucraini, polacchi, politici tedeschi, almeno 4 Blockelteste, un cuoco, perfino una SS. Ma il suo campo preferito è il KB. In KB Henri ha ingresso libero. Il dottor Citron e il dottor Weiss sono più che suoi protettori, suoi amici, e lo ricoverano quando vuole e con la diagnosi che vuole. Ciò avviene specialmente in vista delle selezioni e nei periodi di lavoro più gravoso. A svernare, dice lui. Disponendo di così cospicue amicizie, è naturale che raramente Henri sia ridotto alla terza via, al furto. D'altronde, si comprende che su questo argomento non si confidi volentieri. È molto gradevole discorrere con Henri nei momenti di riposo. È anche utile. Non c'è cosa del campo che egli non conosca e su cui non abbia ragionato nella sua maniera serrata e coerente. Delle sue conquiste parla con educata modestia, come di prede di poco conto, ma si dilunga volentieri a esporre il calcolo che l'ha condotto ad avvicinare Hans chiedendogli del figlio al fronte, invece 8 mostrandogli le cicatrici che ha sugli stinchi. Parlare con Henri è utile e gradevole. Accade anche, qualche volta, di sentirlo caldo e vicino. Pare possibile una comunicazione, forse perfino un affetto. Sembra di percepire il fondo umano, dolente e consapevole della sua non comune personalità. Ma il momento appresso il suo sorriso triste si raggela in una smorfia fredda che pare studiata allo specchio. Henri domanda cortesemente scusa. «J'ai quelque chose à faire, j'ai quelqu'un à voir». Ed eccolo di nuovo tutto alla sua caccia e alla sua lotta, duro e lontano, chiuso nella sua corazza, nemico di tutti, inumanamente scaltro e incomprensibile come il serpente della Genesi. Da tutti i colloqui con Henri, anche dai più cordiali, sono sempre uscito con un leggero sapore di sconfitta, col sospetto confuso di essere stato anch'io, in qualche modo inavvertito, non un uomo di fronte a lui, ma uno strumento nelle sue mani. Oggi so che Henri è vivo. Darei molto per conoscere la sua vita di uomo libero, ma non desidero rivederlo.